giornale radio del Friuli Venezia Giulia. A Trieste è sgomberato il silos, ricovero di un centinaio di migranti. Insieme ad altri richiedenti asilo che si sono presentati davanti alla struttura saranno trasferiti in Lombardia. Alle operazioni condotte dalla polizia presenti anche i rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. La nostra intervista con il portavoce. Natisone, le ricerche di Christian Molnar proseguono solo con i cani, sospeso l'impiego di battelli ed elicotteri. Fincantieri realizzerà altre due navi da crociera da 50.000 tonnellate per Viking, potranno ospitare 1.000 passeggeri. Intelligenza artificiale, la prossima settimana un convegno internazionale a Villa Manin, la presentazione della regione. I dermatologi in spiaggia a Grado per consulenze e controlli gratuiti, l'importanza di proteggere la pelle da un'esposizione eccessiva ai raggi solari. Sono le 12.31, ancora buona giornata da Giampaolo Mauro ed Eva Ciuc. C'erano meno di 100 migranti questa mattina al silos di Trieste quando sono cominciate le operazioni di sgombero in base all'ordinanza emessa dal sindaco una decina di giorni fa. La polizia è arrivata in forza all'esterno della struttura e alla presenza dei volontari delle associazioni che si occupano dei migranti e di rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati ha invitato gli occupanti a lasciare le tende e a preparare gli zaini. I migranti del silos regolari per aver già presentato domanda di protezione o asilo e altri che si sono presentati nei pressi della struttura questa mattina per avviare il loro percorso nell'accoglienza saranno tutti inviati in Lombardia. Il nostro servizio. Sacchi di immondizia accatastati, vestiti abbandonati, avanzi di pasti frugali, tende. Poche quelle rimaste, la maggior parte sono state smontate e portate via dai migranti stessi che le hanno abitate così a lungo. Alle 9.30 di questa mattina è il silenzio e il vuoto a caratterizzare il silos di Trieste. L'operazione di sgombero delle persone migranti residenti da anni in questo luogo fatiscente e abbandonato è iniziata da parte delle forze dell'ordine attorno alle 7 del mattino. Era oggi l'ultimo giorno utile per farlo, secondo i tempi fissati dall'ordinanza del sindaco Roberto Di Piazza, appesa alla rete di quella che era la cosiddetta porta d'ingresso dello stabile. Alla spicciolata i migranti sono stati accompagnati fuori dalla struttura e portati sotto i tendoni allestiti dietro al silos dalla protezione civile dove medici e operatori sanitari di Asugi hanno svolto le verifiche mediche di prassi. Un centinaio di migranti che si sono fatti trovare dentro la struttura consapevoli che sarebbero stati sgomberati ma desiderosi di trovare una soluzione d'accoglienza migliore. Altre 15 persone invece che non avevano dormito dentro al silos ma in altri alloggi di fortuna all'addiaccio in città si sono fatti trovare nei pressi del silos proprio per essere aiutati. Secondo la questura sono in totale 115-120 al massimo i migranti gestiti questa mattina. Di questi solo una quindicina non aveva ancora iniziato l'iter per il permesso di soggiorno, quindi irregolare sul suolo italiano. Gli altri invece le carte le avevano e le tenevano strette tra le mani. Per loro non era stata trovata una soluzione d'accoglienza perché il sistema attuale è saturo. Il loro destino ora è di essere trasferiti fuori regione. Ad accoglierli sarà la Lombardia. Le forze dell'ordine hanno permesso di filmare le operazioni di sgombero e permesso ai giovani che fanno parte delle varie associazioni del territorio di vedere quanto stava accadendo. L'UNHCR con diversi operatori ha vigilato sull'operazione e fornito assistenza linguistica ed è sempre l'UNHCR a fornire i 12 moduli abitativi che in pochi giorni verranno allestiti a Camposacro dove sono destinati ad essere accolti i migranti che da oggi in avanti arriveranno a Trieste. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Dicevamo della presenza nel silos questa mattina e per la giornata di oggi di rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati per assistere i migranti nelle operazioni di trasferimento. Abbiamo intervistato Filippo Ungaro, portavoce nazionale dell'UNHCR. Nella giornata di oggi qual è il vostro ruolo? L'UNHCR è qui, è presente a Trieste da diverso tempo per ovviamente affrontare il discorso della rotta balcanica. Noi siamo qui oggi per fornire tutte le informazioni giuste, corrette per i richiedenti asilo e per tutte le persone che sono all'interno del silos. Il silos è una situazione che non può più andare avanti, va chiuso, per fortuna viene chiuso. Augurabilmente si metterà una parola fine a questa situazione che è inaccettabile e indegna. L'UNHCR cercherà di garantire che rispetto a tutte le persone vengono garantite garantiti i loro diritti, abbiano tutte le informazioni necessarie, forniamo operazioni di mediazione culturale, sperando appunto che questo trasferimento di queste persone avvenga nel miglior modo possibile, nel rispetto dei loro diritti e nel rispetto della loro dignità. Lei ha visto situazioni drammatiche in tutta Italia, una situazione come questa? Assolutamente inaccettabile, veramente siamo molto lontani da una situazione di dignità, topi, sporcizia, veramente l'avete visto anche voi, una situazione inaccettabile, è giusto che venga chiuso. Così grave solo a Trieste? Ci sono altre situazioni gravi in Italia, ma questa è una situazione molto molto grave. Trieste, Navita Diani, TGR Friuli Venezia Giulia. A Udine, nuova udienza nel processo per l'omicidio di Luca Tisi, il senza tetto massacrato a coltellate dal 29enne reo confesso Bruno Macchi. Ascoltiamo. Terza udienza in corte d'assise a Udine nel processo per l'omicidio del senza fissa dimora Luca Tisi da parte del reo confesso Bruno Macchi. Forse la più importante, è infatti il giorno dell'interrogatorio dell'imputato che avverrà questo pomeriggio. Al mattino il 29enne si è confrontato in aula, visivamente ma non solo, con le conseguenze del suo gesto, osservando le foto della scena del crimine e dell'autopsia durante la deposizione del medico legale Carlo Moreschi, intervenuto in Galleria Alpi quella mattina del 15 aprile 2023, ma anche ascoltando la prima telefonata al NUE della persona in lacrime che ha ritrovato Luca Tisi agonizzante. Almeno 85 le coltellate rilevate dal medico legale, quasi tutte a capo e collo, soprattutto nella parte destra del corpo. Luca Tisi non è morto immediatamente e prima dei colpi mortali alla testa ha sicuramente tentato di difendersi. Lesioni sia sulle braccia da difesa passiva a protezione del capo, sia da difesa attiva nel tentativo di afferrare il coltello. Negativo l'esame tossicologico, alcol o droghe, sul corpo di Tisi. Aveva ancora con sé del denaro, esclusa quindi la rapina come movente. Non ci sono elementi medico-legali per dire se l'aggressione sia iniziata mentre Tisi stesse dormendo o meno. Ascoltato anche l'esperto della polizia che ha analizzato le tracce ematiche presenti sulla scena del crimine. Emerge come la vittima sia stata colpita mentre era spostata di 90 gradi rispetto ai cartoni su cui dormiva. Macchi è rimasto in galleria per circa 4 minuti, tra le 5.08 e le 5.10, una telecamera privata puntata sulla via e in grado di registrare anche i suoni, restituisce delle urla e dei lamenti. Tracce di sangue o DNA di Luca Tisi sono state trovate dal biologo che ha svolto la consulenza di genetica forense sul muretto della roggia, sulla felpa e sui pantaloni di Macchi, sulla bicicletta con la quale si è recato in galleria. Nessuna traccia sulle scarpe e sul coltello, il che fa supporre siano stati lavati dopo l'omicidio. Udine, Lillo Montaltomonella, TGR Friuli Venezia Giulia. Economia e lavoro, Fincantieri e Viking hanno annunciato di aver firmato i contratti per la costruzione di due nuovi navi da crociera dalla stazza lorda di poco superiore alle 50.000 tonnellate. Le navi si baseranno sulle caratteristiche delle precedenti già realizzate da Fincantieri per questo armatore. Potranno ospitare un migliaio di passeggeri in circa 500 cabine. Le navi saranno consegnate tra il 2028 e il 2029. Non è stato ancora comunicato il cantiere nel quale saranno realizzate. Il valore dell'accordo è superiore ai 500 milioni di euro. È ripreso questa mattina il confronto fra aziende e sindacati sul percorso che porterà alla reindustrializzazione del sito Varzila di Bagnoli della Rosantra da parte della MSC. Nell'ultimo incontro, una settimana fa, erano emerse distanze tra le parti, ma i sindacati non avevano mancato di sottolineare anche i passi in avanti. Oggi in particolare sono attese risposte sugli incentivi da erogare lavoratori che escono o vanno in MSC e in generale sulla proposta economica per i dipendenti formulata dai sindacati. I dipendenti dell'azienda sanitaria Friuli Occidentale, aderenti alle sigle sindacali UIL, FPL e NURSIND, hanno proclamato lo stato di agitazione a seguito del mancato confronto con l'ASFO sul tema dell'accordo integrativo aziendale non in linea con le politiche di valorizzazione del personale, sul disaccordo riguardo alle indoneità di pronto soccorso, sulla denunciata carenza del personale e infine a causa del mancato rispetto delle relazioni sindacali. Un'agitazione, dichiarano i sindacati in una nota, che in caso di mancato accordo potrà sfociare entro breve termine nella proclamazione dello sciopero. La distribuzione dei consumi tra grande, media e piccola distribuzione, la percezione dell'andamento dei prezzi, la scelta tra grandi marchi e produzioni locali, l'approccio all'e-commerce, il rapporto con le associazioni dei consumatori. Questi alcuni degli aspetti analizzati in un'indagine realizzata da SVG per Feder Consumatori e Adiconsum. È stata presentata poco fa a Udine. Un terzo delle famiglie residenti in Friuli Venezia Giulia nel 2023 ha assistito a un peggioramento delle proprie condizioni economiche a causa dell'inflazione e della stagnazione di stipendi e pensioni. E per 6 famiglie su 10 il potere d'acquisto è diminuito, in particolare a causa dei rincari dei beni energetici, ma anche degli alimentari, delle spese sanitarie e di quelle per la casa. A dirlo è il report sui consumi 2024 in regione di Federconsumatori e Adiconsum realizzato da SVG, da cui emerge un quadro di sostanziale incertezza sul futuro che riguarda in particolare la fascia d'età fra i 30 e i 40 anni, come spiega Rado Fonda, ricercatore SVG che ha coordinato la ricerca, che ricorda anche come la percezione di stabilità della propria situazione economica riferita dal 59% degli intervistati risente del fatto che tale situazione era già peggiorata negli anni precedenti. Si tratta quindi di una stabilizzazione al ribasso. Le soluzioni adottate per arginare i rincari, secondo il report, sono le stesse riscontrate negli ultimi anni, ovvero eliminare sprechi ed eccessi e fare più attenzione alle promozioni, ma cresce anche, per la prima volta nel post-Covid, chi decide di rinunciare del tutto all'acquisto di determinati beni o servizi, a partire dai pasti fuori casa e da vestiario e calzature. Udine, Daniele Letti, TGR, Friuli Venezia Giulia. La tragedia del Natisone, da oggi viene rimodulata la macchina dei soccorsi per le ricerche di Christian Molnar, la terza vittima inghiottito dalle acque del fiume ormai 3 settimane fa insieme a 2 amiche i cui corpi sono già stati ritrovati. Le verifiche, ha fatto sapere il prefetto di Udine Domenico Lione, saranno affidate principalmente ai cani molecolari, continuando tuttavia a perlustrare le sponde del Natisone fino alla confluenza con il Torre. Per garantire supporto in municipio a Premariacco resterà operativo un presidio di vigili del fuoco con la collaborazione della protezione civile. Sono invece sospese le attività subacquee, di navigazione e di perlustrazione aerea. Nei prossimi giorni, se le verifiche non daranno ancora esito, ci sarà un nuovo aggiornamento dei protocolli. 2 persone sono state arrestate in altrettante operazioni antidroga portate a termine a Udine dalla polizia. Si tratta di un filippino di 31 anni e di un pakistano di 44. Il primo, controllato a poca distanza dall'ex caserma Cavarzerani, è stato trovato in possesso di oltre 0,5 chilo di hashish e di alcune dosi di shabu, una potente anfetamina che viene prodotta in Asia e provoca gravi danni al sistema nervoso centrale fin dalla prima assunzione. L'altro, sottoposto ad un controllo in via Calatafimi, aveva addosso oltre 2 etti di hashish. Entrambi dovranno rispondere di possesso di stupefacenti ai fini di spaccio. Nuovo carcere di San Vito al Tagliamento. Questa mattina è stato fatto il punto in prefettura a Pordenone. Il cantiere partirà entro l'estate. Ascoltiamo il ministro Luca Ciriani, il ministro per i rapporti con il Parlamento. Finalmente, dopo quasi 15 anni di attese, di rinvii e di grandi giudiziarie, siamo pronti a firmare il contratto con la ditta che ha vinto l'appalto. Probabilmente tra giugno e luglio finalmente si avvieranno i lavori del nuovo carcere di San Vito. Il costo totale è di 51 milioni di euro, 41 erano già assegnati, 10 sono aggiunti recentemente al Ministero della Giustizia. Oggi è rappresentato dal sottosegretario delle Vedove, del Maschio delle Vedove, che ringrazio per la sua presenza. Abbiamo fatto un lavoro molto, molto duro, senza tanti clamori, lavorando in silenzio come nostra abitudine, grazie alla collaborazione di tutti i parlamentari di maggioranza, il sindaco di Pordenone, il sindaco di San Vito, tutte le autorità presenti. Finalmente entro 2 anni, questo lo prevede il contratto, il carcere finalmente sarà realtà, ospiterà circa 300 detenuti e finalmente darà una risposta alle esigenze di giustizia di questo territorio. Quella del carcere è stata una delle pagine più imbarazzanti, per usare un eufemismo, della storia della destrattagliamento, perché un cantiere mai avviato, tante volte inaugurato, come in realtà non è mai partito, una serie di contenziosi infiniti, una continua serie di richieste di nuovi finanziamenti. Finalmente, grazie al lavoro, ripeto, fatto in silenzio, in maniera operativa e concreta da parte di tutte le istituzioni, mia, dell'onorevole Lopez, dei sindaci, siamo arrivati ad oggi. la ditta Pizzarotti ha detto ufficialmente che è pronta a partire, quindi credo che nei prossimi mesi finalmente metteremo la prima pietra. Lei ha usato tanti dovrebbe, c'è tanta scaramanzia? No, diciamo, le ombre non sono più, ma io uso forse qualche condizionale come reazione quasi come inconscia al fatto che dopo 15 anni in cui ho visto inaugurazioni, promesse, affermazioni che il cantiere era pronto, addirittura anche inaugurazioni di cantieri inesistenti, diciamo, su questa vicenda io cerco di mantenere un profilo di serietà e di prudenza, però oggi qui saranno presenti tutti, il Ministero della Giustizia, il Ministero dell'Infrastruttura, la ditta che ha vinto, il prefetto, il direttore del carcere, davvero tutti coloro che hanno partecipato a questo lavoro, oltre naturalmente le autorità politiche, e quindi io sono convinto che metteremo questa prima pietra da qui a un paio di mesi e attendo quel giorno con tanta impazienza, ma cerco di essere un politico amministratore serio e quindi il giorno della prima pietra toglieremo anche quell'ultimo condizionale perché sarà caduto anche l'ultimo velo. Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. Intelligenza artificiale, la prossima settimana a Villa Manin un convegno internazionale che è stato presentato oggi dalla regione, focus in particolare sulle applicazioni in sanità e medicina. Lo sviluppo dell'intelligenza artificiale in ambito sanitario ridefinirà il modo con cui saranno diagnosticate e trattate le malattie e riorganizzata l'assistenza sanitaria. I sistemi artificiali, dotati di capacità cognitive per riconoscere, classificare e diagnosticare, apriranno dunque una serie di scenari da affrontare però con rigoroso approccio etico. Tematiche che saranno discusse il 27 e 28 giugno a Codroipo con esperti nazionali ed europei. Un confronto, ha detto il presidente della regione Fedriga, che rappresenta una grande sfida perché l'intelligenza artificiale può essere importante per migliorare le risposte da fornire al cittadino per la tutela della salute. La regione Friuli Venezia Giulia, ha aggiunto l'assessore alla salute Riccardi, sta già valutando ogni approccio etico di questa forza trasformativa nel campo della medicina. Noi dobbiamo utilizzare al massimo le tecnologie. C'è una quota importante del miliardo complessivamente del pacchetto di investimenti che abbiamo nell'evoluzione tecnologica, quindi c'è un lavoro a beneficio del sistema professionale e poi c'è un grande tema di alfabetizzazione del cittadino nell'utilizzo della tecnologia che si scontra inevitabilmente con le persone con l'età avanzata, ma è l'unica risposta in particolare per garantire delle situazioni di crisi che hanno sempre più una componente sociale rispetto a quella sanitaria. Silvano Barone, TGR Friuli Venezia Giulia. Siamo alla pagina del tempo, il cielo è da nuvoloso a variabile su pianura e costa, sereno in montagna, a Trieste ci sono 25 gradi e mezzo, il mare è quasi calmo con temperatura di 24 gradi e mezzo, Pordenone 30 gradi e mezzo, Udine 29 gradi, Gorizia 28 gradi, in montagna Tolmezzo 27 gradi, Forni di Sopra, Tarvisio 26, Sappada 23 gradi e mezzo, Piancavallo 23 gradi, in quota sul Monte Lussari 21 gradi e mezzo, sullo Zoncolan 20 e mezzo. A Lignano e Grado 27 gradi, la temperatura del mare 26 gradi. Previsioni a cura dell'ARPA, nel pomeriggio avremo cielo variabile con caldo afoso, specie su pianure e costa, possibile qualche rovescio sui monti. Dalla sera saranno possibili temporali sparsi, specie verso il Veneto, che potrebbero essere forti. Previsione incerta rispetto ai temporali serali, con però un allerta di colore giallo emesso dalla Protezione Civile, valido per tutta la regione dalle 18 alle 24. Domani su pianura e costa avremo cielo sereno, poco nuvoloso, con atmosfera più secca e gradevole rispetto ai giorni precedenti. Sui monti cielo poco nuvoloso al mattino, mentre dal pomeriggio sarà possibile qualche locale rovescio. Peggioramento in serata su tutte le zone. Oggi è la giornata nazionale per la lotta contro le leucemie, linfomi e mieloma. Per l'occasione, per tutta la giornata, l'Associazione Italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma, AIL, metterà a disposizione uno speciale numero verde 800-226524. A disposizione ci saranno 8 ematologi e un gruppo di altri specialisti per offrire consigli sulle malattie e sui centri di terapia di tutto il territorio nazionale. I dermatologi in spiaggia a Grado nelle settimane cruciali dell'anno, quelle in cui la pelle va particolarmente protetta dall'eccessiva esposizione ai raggi solari. Tra l'esdraio, i medici dell'azienda sanitaria per consigli e controlli. La parola d'ordine è gradualità. Con l'arrivo dell'estate e delle vacanze aumentano le giornate passate sotto il sole, magari in spiaggia, e per questo serve prudenza, lo dicono gli specialisti della clinica dermatologica della SUGI, che insieme alla LILT hanno promosso per il terzo anno di fila screening gratuiti della pelle alle Terme di Grado, un'iniziativa di prevenzione per promuovere quello che chiamano esporsi sano. La direttrice della clinica dermatologica dei centri MST a SUGI, Iris Zalaudek. Significa di esporsi gradualmente, di dare alla nostra pelle la possibilità di adeguarsi all'ambiente, alla esposizione al sole e così di non fare danni. Le raccomandazioni sono chiare: usare sempre le creme all'inizio con protezione alta, evitare le ore più calde, quelle dalle 11 alle 16, stare attenti alle scottature, in generale non passare mai tanto tempo al sole. Le persone che pensano se stanno 8-9 ore al sole si abbronzano di più, non è vero, basta poco di produrre i pigmenti, stimolare le nostre cellule. Avvertenze che valgono in particolare per i bambini che hanno la pelle più delicata: un'eccessiva esposizione durante l'infanzia può formare melanomi anche prima dei 40 anni. Una cosa anche comune e completamente sbagliata è di mettere le creme solari solo sui nei, perché i nei in realtà sono già pigmentati e si possono proteggere da solo. Ogni anno sono circa 600 le persone che aderiscono all'iniziativa e si fanno visitare in spiaggia, e ogni anno purtroppo si trovano melanomi. Farsi vedere è una cosa semplice, ma può potenzialmente salvare la vita. Grado, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. L'arcivescovo di Udine, Riccardo Lamba, benedirà l'area gioco inclusiva per bambini e ragazzi con disabilità realizzata su impulso dell'associazione I Ragazzi dei Colli di Fraelacco ODV e del suo progetto Grappolo Solidale, realizzato grazie alla valorizzazione del vino delle suore di Fraelacco. Appuntamento in via dei Boreatti alle 15. Siamo alla pagina degli spettacoli. Nella giornata internazionale della musica, decine di appuntamenti in regione, alcuni ufficialmente inseriti nelle celebrazioni, altri di rilievo per lo spessore dei protagonisti. Particolarmente significativi gli appuntamenti di stasera con il jazz, i concerti del sassofonista Evan Parker all'Abbazia di Rosazzo, del pianista Alexander Hawkins al Kulturnidom di Gorizia. È interessante e curiosa l'esibizione del pianista francese Edouard Ferlet a Pordenone per Piano City. Nel progetto che presenterà in Piazza San Marco alle 19, Ferlet suona a quattro mani con il suo alter ego virtuale, grazie a un pianoforte meccanico automatizzato in cui lo strumento comunica con un computer. E sono tanti i festival che si aprono oggi per proseguire nel fine settimana. A Porcia il Brass Festival, che ospiterà a Villa Correr Dolfini il quintetto di Ottoni dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. A Trieste il Triskel, che proseguirà al Ferdinandeo fino al 30 giugno. Il concerto inaugurale vedrà protagonista stasera il gruppo laziale Muse del Diavolo, tamburi, cornamuse, danzatrici, e a seguire i francesi The Celtic Tramps. Per la prosa, sempre a Trieste, nella sala Bartoli del Rossetti, va in scena Manson, ispirato alla vita e ai massacri del fondatore della setta dei Figli di Satana. Il protagonista è Andrea Argentieri. È tutto per questa edizione, che è stata redatta e condotta da Eva Ciuc e Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico di Bruno Montevecchi e Walter Vidonis. Ha collaborato in redazione Cristina Polselli. 12:52 minuti, 30 secondi, la prossima edizione oggi è alle 15. A tutti voi grazie per averci seguito e l'augurio di un buon pomeriggio. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.